frate sta facendo benissimo. Guarda adesso. Adesso già sei tu. Poi è quell'ecco, c'è cioè questa specie di riverbero già, fallo naturale senza niente. Così è naturale. È un passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Diciamo va abbastanza meglio, dai. Non è eccellente, ma almeno è comprensibile, poco fa non si capiva niente. Però non è limpida come piace a me già. Non è limpida, ma stai pompando. No. Sembra che c'è il lineare attaccato, già fatto il vero segnale. Sì, 9 più 10, è troppo basso. La modulazione è stroppata, manca lì, tu che ce l'hai più vicino. Io lo sento bene, lo sento. Non era saturo qua. No, non saturo, stroppata la modulazione, non è bella forte amplificata come sono abituato a sentirlo, capito? Dipende da cosa sta usando, ogni tanto ne chiama parecchio, ne fa di poco Gianni di cose, non lo sa. Non mi sentire questa già? Guarda, scusa un attimo, c'aveva qualche innesco. Dunque io sono distante, non lo sento bene come lo sentivo prima Gianni, mi dispiace, non lo so. È un passaggio più lungo già, c'aveva un rumore appresso poco fa, prova a parlare. No, è perché era il telefono. Comunque puoi anche abbassare, tanto abbiamo visto che la maniera della forza non l'hai persa, abbassa, torna come te di prima. Non sono mai stato forte io, avete detto sempre voi e gli altri, io non ho mai detto niente, capito, mi avrò bene. No, io qua non devo abbassare niente, questa è regolata per la KF la radio. Adesso posso staccare e cioè commutare, vado con la radio della 27. Aspetta. Che commuta, commuta tu. Oggi mi ha preso uno spavento terribile. Cosa ti è successo? Sì, cosa mi è successo? Che inavvertitamente ho toccato un tastino e se n'è andato da un'altra parte in banda laterale. E non riuscivo a misurare. Sai che cosa è successo? Bruciato raggio. Ehi, cosa è successo ai vivi? Così bene ti va, Roberto. Diciamo, adesso sei più tranquillo. Lo sai, no? Vabbè, che questo è già pompa, avete 140 con le mie fischiette. Fischietta, attenzione, forse sei troppo vicino o troppo alto. Oh, adesso c'è. Hola. Hola. Forse ero troppo... C'è un fischiettino sotto, vediamo se Gianni è rientrato. Sì, dai, vi ascolto, dai, se non esco bene non è. Però fa un passaggio lungo già, di due o tre parole non si capisce, voglio sentire bene normale, fa un discorso lungo. Ho detto, se esco male non entro, vi ascolto, vabbè. Probabilmente adesso dovrò cambiare l'antenna. No, già sta uscendo bene, adesso va bene, niente da dire. Naturalmente c'è sempre questo vizio del riverbero. Quello è un Turner. Qual è Natalì? Quello che stai usando, un Turner stai usando. No, Natalì, non sto usando il Turner, sto usando, come si chiama, l'Echo Master Plus. Sembrava la modulazione di un Turner. Andà bene Meda, io come sto uscendo, Robè? No, te ti ascolto perfettamente, la voce tua tranquilla e naturale. Quella di Gianni è bella adesso, però c'ha sempre il effetto camera e li deteriora un po' la cosa. Vorrei sentirlo, quel microfono pulito, senza niente. No, così, bene ti va. Prova a parlare. Guarda, sto parlando. Guarda se ti va bene. Forse anche pure troppo alto, già va bene, adesso è comprensibile. Dai. E anche qua adesso va bene già, però noto sempre questa carenza di alti, mentre invece prima avevi gli alti belli acuti, adesso ne hai di meno. È la bella che non sto andando bene, cara, non sto andando bene la te, la cambierò sicuramente. E vedi tu, casa dire, Garcia, chi ce l'ha mai andata male, basta, o te la riprendi nuova così, oppure vai normalmente sulla mantova, se Giulio ti dà quella che c'ha, la mantova turbo nuova, perché lì già secondo me quei tipi di antenne non vanno bene, sei troppo esposto al vento, ma non te la metti a dire mi piace andare a Mantova, a Giubai pigia la Mantova. Cazzo, quel giorno c'era per faccetto pistolare, ma pigiando dopo il tutto. No, ma non è Puglia secondo me, ma prendo un'opera. Pirati la Gepolo allora. Ti conviene quella, gatto, almeno esce di lusso. Perché non ti prendi quella che c'è da Claudio? Già. Quella lì, gatta, è una belva di antenna. Quella lì, però. Claudio mi ha detto che non ce ne ha più. Sto aspettando io. Se vuoi lo chiamo e le dico quando manda la mia. Mi ha detto me la mandava prima di Natale. E io l'ho dovuta smontare perché mi ha chiesto una cortesia praticamente di un suo cliente della zona di Cagliari che le compra un mare di roba e siccome stanno gettando, sta facendo il tetto nuovo e sta mettendo l'antenna nuova, capito? Anche lui deve mettere la cipolla e quindi il muratore ha detto se ce l'hai adesso l'antenna noi la montiamo visto che siamo sul tetto, capito? Che c'era il ponteggio e se no poi da raggi e allora mi ha chiesto la cortesia se gliela mandavo io, l'ha già montata e esce non bene, no? Esce molto bene, però ecco lì, minchia, lì con la Smartech scherreggia forte, non ha i radiali, non ha niente, non ci vanno finanti, non va molto alta, Gianni, non va molto alta, il tubo anche da 2 metri va bene, è 8,50 m quell'antenna, a me non è uno scherzo, io l'avevo montata a livello del muretto del, mi pare la vita Roberto, del muretto del giardino, non l'ho montata dove c'è la Mantova, troppo alta. Ma essendo così alta, è troppo esposta al vento, non hai capito? Una più leggera di antenna, mi prenderò una Superlevo o qualche cosa del genere. Guarda già, informati, controlla se stanno facendo, se trovi la cosa, la turbo, e ti metti la solo che il tuo problema sono questi radiali già, tu hai bisogno di un'antenna lì senza radiali, capito? Io qua non c'ho corvi, non c'ho nulla, qua io non ho mai visto un uccello, nulla, tranne quello di mio zio, ho visto l'uccello e basta. Ma lì, perché sei troppo in alto, lì ricipano le acque. E il tuo non lo conti? No, il mio, è che se lo vede più. Quello di mio zio ho visto ogni tanto, me lo fa vedere, tu non ho capito perché. buonasera, ciao. Ciao, sì, buonasera, ben ascoltato. Ogni tanto non lo fa vedere, ma di un peso, anche lo fai vedere a me, non lo fai vedere a altri, no, invece lo fai vedere a me, vabbè. Comunque, sì, secondo me tu hai bisogno di un'antenna come la Mantova, uguale la Mantova, non ci sono alternative, perché questa che ho io, quella che avevo, vabbè che ho perché la mia, non è che già pagata e tutto, sto aspettando che arrivino per ripiazzarla, è 8,50 m, io ad esempio se abitavo ancora a Carbonati, mica non te la potevo montare quell'antenna, ma nel modo più assoluto, troppo alto, invece qua ho fatto una media e va bene. Figurati che la Mantova è a 6 metri di altezza e quella era a 2 metri, il radiale centrale era la stessa altezza della Mantova. Infatti un conto quante ascia. Vai Roberto. Io ho sentito a Tino, ciao Tino, ben sentito. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Allora, sono qui in X, sto facendo una cosa, riprendete, sono entrato a salutare. Ciao a tutti. Ciao Tino. Ma dove sei Tino? Sei in postazione 1? No, la 2. Alla 2 sei? Sì, alla 2, sto facendo un lavoretto. Vabbè, Santiago 9, infatti mi sono risultato, tu lo esercizi. Va bene, Santiago 9, ottimo per la truppa. Va bene Gianni, decidi bene e prendi una bella antenna. Se trovi la Mantova, magari qualche regista del magazzino a qualche parte, tu che fai molto internet, controlla. Però per me devi montare un'antenna d'alluminio lì, robusta, perché altrimenti è un casino. Troppo esposto al vento. Mamma mia quanto soffia lì il vento, che è allucinante. Claudio, la Superlevo, come la Mantovao, c'ha quattro radiali ed è come la Mantovao, non guarda. Ma qual è quella che c'ha Marco? No, quella lì, quella di Marco è della Scilio stesso, però non è della Scilio quella che c'ha Marco, la 589, una cosa del genere. Che già caduti i radiali, qualche radiale è stato decaduto con me. Quelli in alluminio denigrarono i radiali, non i biglianti, antenne o ricose in alluminio, che ti nevarani già, te ne scendono, si marciscono e nevarani. Parlando non lo so se c'è dell'alluminio, non c'è specificato, stavo leggendo, non c'è specificato se è l'alluminio o in coso, resina, non lo so. Vabbè, quelli resina si vetrificano lo stesso, la volta lì, cadersi invece la roba si prende greccia. Ma chi di in alluminio di nevarano i bruppi dall'antenna, io ramanto va. Mi raggio, guarda, da tre o quattro voci, una cosa, addirittura mi si è arrugginito il piattello a me, lo pulivo, lo lucidavo, lo verniciato, e qua, si raggio, dovuto lampare. Non lo so, la parte va arrugginisce proprio dove si avvita il piede, che lui si fa anche già sempre. Pigliati una mantova 5, una mantova 1, se la trovi. Lei Mantova, quell'amico mio di Doglianova, dice che a Cagliari da Fusaro ce n'è qualcuno, le tiene lui, se no c'è la sostituta della Mantova, come della Turbo, non mi ricordo come si chiama, le ha prese Riccardino, ne ha preso due e sono simili come antenna, gli hanno fatto qualche piccola modifichetta, ma sono più o meno uguali alla Mantova. E lo dico che ci rasengheggia, è una cagata come hanno fatto il connettore della Mantova, su quello non ci piove, un'ottima antenna, ma lì ci sono. Se tu vedi dove è messo il connettore della Smarttech, della G-Porti Spaventi, è incassato dentro un foro ricoperto tutto in bacchilite e non è a proiezione verticale, è a proiezione orizzontale, capito? Quindi è di lato, dove non entra l'acqua ed è stagno, c'è lo di stagno, incassato dentro, vabbè, non ho mai visto una cosa del genere. Entra il piede giusto, tu lo avviti ed è perfetto. Non va, immaginati Gianni che questa antenna non va neanche isolata, perché in alto c'è il tappo, sì, ma c'è il tappo con un foro fatto dalla casa, dove entra l'acqua e scende direttamente da sotto, senza toccare, intaccare l'antenna, niente, completamente niente, perché l'antenna è isolata dal radiale centrale, oltre a quello che c'ha di lato, no? Della J-Pol che c'ha, il direttore così chiamato dell'antenna, ma è fatta così bene che è una cosa spaventosa. Ne aveva 30 in magazzino, ne ha venduto 35, anche quelle di scorta ci ha venduto, pure mia ci ha venduto. Infatti Gianni nuovamente molto in alto, la lascia a 2 metri come l'hai messa tu e si piazza una di quelle, almeno non c'ha più problemi. È un macello con queste antenne. La Grazioli dice che è molto buona, è molto grossa come antenna, è uguale alla Mantova 5, però è stata rigenerata in alcune cose, c'è un tubo più grosso, pesa di più, pesa 7 kg qualcosa. Già, 7 kg pesa anche quella che ho io. 7 kg pesa anche quella che ho io. Lascia perdere la Grazioli, guardate le statistiche, guardate i siti, cazzo, guardate la J-Pol, la Smarttech, la J27, è l'antenna in assoluto la più forte, sia come resistenza al vento, perché sono due antenne accoppiate e non si discute, non la muove manco misericordia, può muovere il radiale centrale, quello piccolo in alto e basta, ok, ma statistiche, prove fatte, se le mangia tutte se le ha mangiate, sia le 5 ottavi che le 7 ottavi, tutte se le mangia, come ricezione, Gianni, mica io con quell'antenna 5 punti S guadagno, non lo dico io, l'hanno detto gli altri, capito? Tu non li guadagni 5 punti S quando attacchi lineare, è una cosa spaventosa, c'è una differenza di segnale in ricezione, dalla Mantova alla Smarttech, da paura. Perché è più silenziosa qua. La Mantova si fa il QRM e io la già udì, si antenne, ho avuto la 1, la 5, la Turbo. La più silenziosa era la 1, mi sembra. Natalie, io ho la mantova 1, ok, ce l'ho tanti anni, è nuova, l'ho anche tutta revisionata da poco quando l'ho montata qui, ma io quando piove non ne accendo la radio perché tanto non sento niente, sento l'acqua, Santiago, il QRM è Santiago 7-8. Quando ci avevo l'altra, piovendo, e non sta piovendo, c'è non ha il QRM, a zero, il QRM è a zero, è spaventosa quell'antenna, spaventosa. Ma è proprio sarà giù di tu, di Sibiglia, un tubo d'eva da 2 metri, 3 metri massimo, e la mette lì. Non deve mettere né tiranti né niente se mette un tubo come si deve. Beh, io i tubi, glielo do io a Gianni, ne ho tubi zingati da 2 metri, da 3 metri. Non ce n'è problema, poi quello c'è, i cavallotti in acciaio inossidabile, con la piazza in acciaio inossidabile, tutta la buloneria è tutta in acciaio inossidabile, è completa di fascette in acciaio inossidabile della Wurt. Oltre alla fascetta, quando tu innetti, che c'è la misura dell'innetto, innetto per innetto, sono tutti misurati. Una volta che tu arrivi alla misura dell'innetto, c'è anche la vitina per bloccare, e poi la fascetta è fatta in un modo strepitoso. Io mi sono spaventato quando ho visto quella antenna. Ha giudito, no, io la mantova non era buco, l'ho messa a fianco. La mantova a 6 metri di altezza, quella lì a 2 metri in terra, a 2 metri, perché 2 metri di tubo c'erano, quindi immaginate tu, era, perché radiale non ne ha, è l'unica antenna in assoluto che può lavorare da 0 metri a 30 metri di altezza, tu immaginati, può lavorare in terra può lavorare. Quindi da Roberto. No, ho visto anche proprio oggi, stavo leggendo un forum di CB, eccetera, eccetera, in Italia, tutti stanno dicendo a consigliare un'antenna, d'accordo, tutti hanno parlato della Smart Tech, qualcuno ha nominato la Grazioli, però la maggior parte, quelli che la conoscono, hanno parlato della Smart Tech, un'antenna che tra l'altro non costa neanche tantissimo, confrontato, se compri una mantova, guai se la riesci a trovare, è un problema, ma costa una cifra esagerata, e poi alla fine è un pezzo di tubo con un piantone in fibra di vetro e dei radiali, niente di importante, perché tutta la componentistica non è che siano di grande livello, anche il connettore, infatti l'avevo cambiato, il DL da pannello l'ho sostituito, gli hanno messo uno Nanfe, non di quelli di qualità, ho passato il filo internamente, perché la mantova ne ha di difetti. Ma questa non ne ha di cagate, no? È fatta in teflon e in bachilite, il direttore, l'hai visto, i due tiranti che mantengono l'altro pezzo, è una piazza in acciaio inossidabile con gli isolatori in teflon. Se ne pare una direttiva, ma stai scherzando, costa 20 euro in più della Game Master. Ok, la Game Master costa 160 e quella costa 180, più 20 euro di spedizione, ma vai a un'antenna con le contropalle. Ma Gianfranco ancora vivo, Gianfra ci sei ancora? Ok, stava andando a mangiare i gatti, così avete. E a me mi pare che se ne è andato a cena e doveva facciare ultra, cioè io ho già mangiato. No, io ancora non ho mangiato, adesso la fame non mi è ancora venuta, ma tra poco voglio mangiare anche io. No, sono le 8 e un quarto, che esce? 19:42 c'ho io. 19:42, quindi ancora è presto. Qua non c'è nessuno. Ah, ecco perché. Avevo abbassato il volume, fate gli ma non c'è nessuno. Va bene, poi deciderà Gianni di vedere lui cosa fare. Io le posso consigliare la Smart Tech perché ce l'ho, l'ho provata e ti dico che alla mantova se la mangia nuda e cruda. Poi lì bisogna vedere il montaggio, le cose, ma montata in una certa maniera penso che l'antenna regga bene, poi non lo so. Gappa. Ma si libera anche dei tiranti se mette un tubo unico da 2 metri, capito? Non deve mettere manco tiranti una volta. Il guadagno mi va proprio bene. 7 kg pesa, ma senti quante la Superlem, non lo so, 7 kg pesa. Il problema è che è alta 8,50 m, mi è venuti 2,5 m, e 2,5 m sono tanti. Ma se lui mette un palo da 2 metri, come gli ho detto io, non ha bisogno manco di mettere tiranti lui, e si libera pure dei tiranti, e ha finito di soffrire. A tale io parlo di quello che sei scelto tu, non l'ho messo, perché le mie staffe sono messe con tasselli, non sono messe a muro, perché a muro non li potevo mettere, tu non te lo ricordi più, ma è così. Avevo più pigliato era più bucci a muro, per di bucci, come quella che c'ho io in campagna. Cazzo, che sta tenendo un palo da 12 metri e ancora se ne sta ridendo. Cazzo, io è perché non posso fare sforzi, questo e quest'altro, se no ne ha più parata, la manta per 5 ce l'ha più regalata. A chi laggiù in obbi? E laggiù si ne ridendi Sant'Enna. Quando sono andato via 2 mesi c'aveva quell'antenna. E solo che se spostavi in tempia, magari si è rovinata la luce e usata. Che cosa ha rovinato? È sempre in tanchini. E vabbè, ma le tempie le prende. C'è poco da fare. Se arrugginiscono le antenne e poi va. Dopo un po' di tempo con i giambatti. Cazzo, perché c'è del televisore, sono cantato la farina e tutta carta arrugginosa. Bisogna anche te lo dica a capo condominio di cambiata perché fate pietà. E che mettano quelle del digitale terrestre, mi. Perché se sono di tipo vecchio non è che vedono tanto bene. No, ma avevo messo già quella del digitale, tra caro, di quelle di marca. Non è tanto digitale terrestre nuovo, devono avere il filtro FTE per i coso, per i 5G, perché sennò ti disturba il segnale. A me me l'hanno fatto, infatti nuovo, me l'ha fatto Antonio Riserva l'impianto. Fatto bene, ordinato, bello fatto, l'antenne che ho preso a Fugiaro e sono, hai visto come sono, l'antenne quelle appunto di ultima generazione per ricevere tutto. Vabbè, decidi già, controlla, vai su internet e controlla, vedi un po' se qualcuno c'ha qualche giro di magazzino e qualche Mantova 1, Mantova 5, io ho avuto culo. Io c'era un'azienda a Mantova proprio, l'ho chiamato, ho trovato, sto cercando una Mantova 1, una Mantova 5, una Mantova Turbo. Marco, lei è fortunato, la sua giornata è fortunata. Ho una Mantova 1 residuo di magazzino, ma me la mandi via aerea, me la mandi via aerea, da Bologna a Fertiglia che sto andando a prendere adesso. Ma non ne fanno più, non ce ne sono più in giro. Quelle che ci sono già seconda mano, se ne va delle vagabombe, le ho viste su internet, poi non ho più soldi di quando erano nuovo, figurati. Si raddenene già, se vuoi ti dica, si raddenene, io mi ho sentito anche l'altro giorno al venditore. Beh, ma sotto l'albero che già poco che c'hanno io. No, no, caro, tranquillo, tranquillo che sono già ordinate, penso che a giorni arrivi il corriere a scaricare tutto, ne ho ordinato 50. E ha giudito. Ha detto di queste 50, oltre le 30 che ho venduto, nella mia provincia, che è in provincia di Fermo, ne ho già 25 pagate da mandare il corriere in consegna subito appena arrivano. Il resto devo mandare la tua, poi vediamo, insomma, ma comunque no, non ci sono problemi, ma figura di lui. Ma dove le producono qua? Non ho capito quale antenna. Allora, l'azienda, te lo dico subito, dove l'ho messo? Aspetta, accendo la luce. Perché pensavo fossero italiane, ma non credo che siano italiane quelle antenne. Io si intende. Smart Tech Innovation. Piappi 89 a Venosa. Potenza. No, PZ cos'è? PZ. Venosa. Provincia PZ. C'è anche il numero di telefono, per chi lo vuole, il numero del fax, le mail, tutto. info@smarttechinnovation.com. Ma non è detto, può essere anche il distributore nazionale tipo Marcucci con la Icom, e a vedere e capire se non producono effettivamente loro. No, questo è inglese. Marang Innovation and Technology Solution, infatti lo dice N, cioè non è italiano, la produco lì, questo è il venditore per l'Italia. E infatti io mi ricordavo era qualcosa di inglese, a memoria mia. Sì, inglese, ma è forte vendita con Motor Care, una Tech Innovation dedica grande importanza al rapporto con i propri clienti. Ogni tuo acquisto è una relazione di fiducia che ci impegna, volete ricambiare, vi bomba. Utilizzi viaci Facebook, Allora, di guadagno c'ha 8,30. 8 dB, 30 di guadagno c'è. Immaginate già che tiene 5 kW, perché è fatta bene, è tutta in teflon e bacchilite, non ha pezzi di gomma e di plastica e di resina. Ma anche con la trazione come fare? Sai che va un saccaccio di pezzi, di cose, non mi sta piattando la misura associata. Allora ci vede la smalta che da sul di proprio. A Carlo gliel'ho già assemblata io una parte, ma te scherza. Se la vedi com'è fatta questa vetti, ne ha poco di pezzi, ne battilite da innestare, da agganciare con le piastre, la lascia aperta. Ci sono tutte le misure da rispettare, da fare. Un bene ha di pezzi già, un bene. Però io mi aveva mandato un video come dovevo montarla e il tecnico mi sono messo una mattina e me la sono tutta assemblata a terra, l'ho messa in un piantone, l'ho tarata e ciò, tu immaginati che quando l'ho usata io dal canale 1, quindi 26965 a 27805 in continuo, a sintonia continua, non si muoveva l'ago del Rosmet. Una cazzata, ti sto dicendo che è una canonata. Verticale J-Pol per 27 MHz. Parte di rovescio tecnologico, sì, è inglese, dove c'è scritto English. È inglese, la producono in Inghilterra. Infatti, una volta che io sapevo che era inglese. Sì. Non lo vuoi radiazione, da 90 gradi a 165 gradi, già. È micidiale, quindi se è robusta perché sono due antenne accoppiate, quindi ha dei rinforzi con delle piastre in acciaio inossidabile, da paura, e poi c'ha tutte i sostegni in teflon e in battilite, non ce n'è di giocattolo. Non ho sembrato più impegnativo qua, è pesante, capito? È troppo pesante qua, ma come ripeto, tu lo sai, non voglio mettere antenne troppo alte, e poi è piccio, solo con la paranoia. Io non so già, però se vai sulle verticali, anche questa è 8,50 m, ma se vai a mettere un'altra verticale sono 7 metri, non è che è 1,5 m in più, 1,80 m in più, 1,50 m in più, non è che cambia niente, è che l'antenna deve essere robusta, perché o metti un'antenna come Cristiani, o se no tu ogni anno ti dà per i di là e basta, perché quell'antenna era nuova, cioè è stata montata da poco, non è che era vecchia, ha avuto un problema forse di montaggio, e vabbè, ed è stato risolto, ma come vedi la resistenza al vento non è quella che dicono loro, perché se fosse veramente come dicono loro non si sarebbe rotta l'antenna, quindi noi che dobbiamo andare a dire non siamo riusciti a montare un'antenna a un prezzo di dubbio, ma stiamo scherzando, è debole. Che Gianfranco non so quanti anni ce l'ha e non se li è mai rotta. Per esempio a Salvatore, questo che è vicino a me, che è il radioamatore, se ne faccia da Buraedu, però a Gianfranco come va non si è rotta, vuol dire che abbiamo sbagliato piazzandola. Sì, perché c'erano le misure da rispettare tra un elemento e l'altro, c'erano le misure, invece non le abbiamo rispettate, cioè praticamente un elemento è stato entrato di più e l'altro è stato trasmesso troppo in punta, quegli elementi che erano in punta si sono troncati a furia di forza. Guarda già, tu quell'antenna non c'è già fatto. Aspetta, te la riprendi uguale, te la riprendi, mamma mia, guarda che c'è il gas, 25 gradi, c'ho gaffugendi, te la riprendi uguale, va bene. Una volta che è montata, si monta tutta, prima di metterla nel palo, si va dal Bicome e si compra lo stesso tubo bianco, uguale a quello, quello quant'è di diametro, faccio una fesseria da 30, si prende da 32, unico, non a pizzi, no, unico, da 32 per tutta la lunghezza dell'antenna, in modo che si entra dentro sino alla fine e si fa un doppio rinforzo, praticamente l'antenna è completamente con un doppio tubo in PVC. Allora solo così la puoi salvare quell'antenna. Ma se vi raggiudito vedi un tubo unico in PVC e non si non capisco a che solo uno. Come si deve fare? Io non ci ho pensato a guardare le istruzioni, però la carina ha detto che ne aveva messo fatto parte di quell'antenna, quindi l'avete piazzato a voi, io non lo so. Dopo ho letto le istruzioni, c'era scritto che c'era da rispettare queste misure, capito? No, io non ho piazzato nulla, io mi sono dedicato al palo e all'altra roba. L'antenna avete piazzato a tu Natalino e coso, come si chiama? Non mi ricordo chi c'era l'altro. Comunque non è quello il problema già. Guarda che l'antenna flette lo stesso, lo stai dicendo. Perché non deve flettere? È sempre il tubo PVC di rinforzo, anziché da 30 come quello si mette da 32 e si innesta dentro, tutto, per la lunghezza dell'antenna, sino ad arrivare al petto del piantone in modo che l'antenna fletta, senza mettere né altro fascette né nulla, solo un rinforzo in modo che l'antenna quando flette sia rinforzata. Gianni, allora spiegami una cosa, io voglio capire, tu l'antenna l'hai messa in un palo, il palo quanto è lungo? Sì, sarà 5 metri. Allora, è la ralla che altezza l'hai messa tu? La ralla di partenza dell'antenna, Roberto? La ralla dei tiranti, la ralla più vicina, quanti ne hai messo di serie di tiranti? Una serie o due? Una serie, Gianni ne ha 9 di tiranti. Allora, la prima ralla dei tiranti è un metro dal tubo, un metro. Per mantenere sciolto, perché lui ha problemi di staffe e quindi chiaramente deve avere quella, e c'ha i due davanti e i due dietro, 4 nella prima ralla. Nella seconda ralla sarà un metro e mezzo, praticamente qua oltre la metà del tubo. Allora adesso ti spiego perché si è rotta l'antenna e si romperebbero molte antenne. Prima di tutto devi rispettare la... Scusa, aspetta, le parole di troppo, scusa, no. Tanto vedi, devi rispettare e arrivi dall'ambulanza a pigliarti. Lo stilo deve uscire fuori di 1,80 m, le sto leggendo adesso le istruzioni. E le cose vogliono fatte a cacciavite, non a pinzano o a chiavi. A chi se no crebbe la vettero resina. Adesso come piazza la mia, vediamo com'è la situazione. Infatti, mi ricordo il giorno avevamo anche difficoltà a fare quelle cose lì, però già. Io direi di prendere un'altra guerra a quella. E ti dico perché te lo dico. Quando io avevo la 510, che era alta 5,60 m, delle V e delle U che Natalino conosce, ok? C'è però, attenzione, non è stato un problema, si sono staccate le staffe, siamo staccate a carbonazzi, prima delle staffe leggere, poi infatti le avevo messe a piastra, anzi no, Fabrizio me l'aveva montata sopra il traliccio, quando si è piegata, che è caduta e si è coricata, l'antenna era intera, non è che si è rotta l'antenna, come è caduta si è spezzata la punta, ok? Io ho preso la misura del tubo che è uguale a quello lì, a quello della Game Master bianco, sono andato al bricco e ne ho preso, anziché prenderne 80 cm, ne ho preso 2 metri, leggermente più largo, l'ho innestato dentro, sino al, praticamente Natalia che è fatta in tre pezzi, no? Sino al pezzo che arrivava, e ho vulcanizzato sotto e sopra, è durata 10 anni, e mica il vento mi ha pigliato a carbonati e antenna, lo sai quanto flette la 510, Natalia, tu già lo sai, non si è mai spezzata, mai e poi mai, perché gli ho messo un altro tubo dentro e fletteva ancora di più. Gianni, scusa, ne interrompo io di nuovo. Allora, l'effetto frusta, non so se non l'avete mai calcolato, ci sono delle tabelle, perché se tu lo metti la ralla troppo vicino al piantone, la base dell'antenna, fa da fulcro, se avete studiato la fisica, a scuola, le leve, eccetera, eccetera. Bisogna dargli almeno 90 cm di oscillazione, e possibilmente deve oscillare il palo in contemporanea. spontanea con l'antenna, no, fallo rigido e oscilla solo l'antenna, alla fine si spacca, anche la mia antenna la rompi, deve essere un'oscillazione equilibrata, per cui la RAL la vuole messa minimo a 90 cm, in modo che ci sia un fulcro più in basso possibile da dove fissa l'antenna, e dopodiché tiranti quelli necessari, è inutile che rigirigi troppo il palo, tu già, e alla fine cacchio non scarica la leva, ci sono delle forze inerziali che vanno calcolate in base all'oscillazione dell'antenna, è un effetto frusa, se tu fai tipo la frusa di Zorro, adesso dalle punte oscilla di per un metro, 50 centimetri, la parte della base scarica tutta la forza, ci sono delle forze inerziali, si chiamano, di coso, e a un certo punto deve scaricare da qualche parte, è come una trave, che mette una trave, e idem della stessa cosa sulle antenne, io ho calcolato fisicamente, ho fatto un progettino, non è che sia uno scienziato, ho studiato i geometri, li abbiamo studiate queste cose, è inutile irrigidire troppo il palo, se ci metti dei cavi in nylon, non di nylon quello della lenza, non parliamo di quelli cavi nautici, che quelli hanno un pochettino di tollerata, con i registri, non la devi fare troppo rigida, tu se vai nel palo mio, muovi il palo, un po' oscilla e scarica palo e antenna insieme, quello è fondamentale, è inutile avere un palo perfettamente rigido e poi scarica sul piantone, io ho visto Manto per truncare in due, così, avanti anche tu. Le staffe del palo vuole 1,20 m una dall'altra. La matta va via più un bel tempo, ce l'avremmo roba di 9 o 10 anni, oppure di più forse, vero? Andate a vedere quella di Gigi, come si chiama, di Gigino, giù alla ottava, penso che di vento quella ne prende, perfettamente montata, con i tiranti giusti, ed è perfetto, un lavoro eccellente, così bisogna montare le antenne. Sì, ma io l'ho sempre montato, ne abbiamo sempre montate bene, questa è la mia master, praticamente, è stata montata non sapendo che c'erano queste cose da rispettare, tutto lì, e magari è stato entrato un tubo meno nell'altro e successo quello che è successo, ciccia, non è che è stato un errore nostro, basta, adesso la prendo un nuovo e basta, tutto lì, non mi prendo la leva perché l'ho già ordinata, l'ho già ordinata, quindi prendo la leva, ho già deciso, prendo quella lì perché è molto simile alla Mantova, alla Mantova 1, c'ha 4 radiali, 7 dB di guadagno, va benissimo, va. Vabbè, i guadagni lasciateli perdere, sono tutte fantasie, che 7 dB non esiste, una direttiva è 7 dB, il guadagno di quelle antenne sono intorno ai 3 dB, perché loro calcolano i valori sull'antenna, l'isotropico, eccetera, eccetera, sono tutti valori sballati, non esistono, calcolate intorno ai 3 dB, poi tutto il resto sono balle, state attenti, non vi fidate di quello, perché una direttiva per avere 7 dB di guadagno deve avere una direttiva almeno 3 elementi, una direttiva con un direttore, riflettore, eccetera. Vabbè, ci sono le antenne che c'è scritto 3 dB, c'è scritto 4 dB, questa c'è scritto 7, poi non lo so se sia veritiera la cosa o meno, però c'è scritto 7 dB, ed è come la Mantova 1, c'ha 4 radiali, la mola centrale, e poi è come la Mantova, è uguale alla Mantova. Allora, il discorso dei dB, ci sono un'antenna di riferimento isotropica e poi c'è il dipolo a mezz'onda, il confronto devi fare rispetto al dipolo a mezz'onda, l'isotropica è un'antenna teorica che non esiste nella realtà, è come che tu dici, l'amplificatore c'ha 200 watt, sì, ma RMS, nominali, di picco, cosa, così il discorso dei decibel, del guadagno delle antenne, si confrontano rispetto al dipolo a mezz'onda, lì lo fa il confronto, non rispetto a un'antenna teorica, perché tutti questi parametri, i valori che sparano sono male, come questi amplificatori che ci sono in giro, 2000 watt, 3000 watt, poi li propri sono 100 watt, si fa un riferimento al dipolo a mezz'onda e tu, se tu lo confronti, ci avrà 3 dB massimo di guadagno, non esiste di più, per avere oltre 3 dB di guadagno devi mettere dei direttori e dei riflettori di antenna, un'antenna a 3 elementi ha circa 6 dB di guadagno rispetto al dipolo a mezz'onda, questi sono dati fisici veritieri, tutto il resto, anche la Mantova mettono 6 dB e 50, la tubo di 2001 è un'antenna da mettere in macchina a 6 dB, magari non esiste, è fuori dalla realtà. Non esiste, no. Al dipolo isotropico si basano, quindi 7 dB è inesistente per una verticale. quella di Claudio, la, questa che c'ha lui, la J. Paul, c'ha un guadagno leggermente superiore, perché c'ha un direttore davanti, c'ha una seconda antenna, chiamiamola, davanti, che infatti con la sua davanti nel front, c'ha un guadagno leggermente superiore, ma stiamo parlando di 0,3 dB, 0,5 dB rispetto a un'antenna senza, dopodiché una 7 ottavi, di dimensioni fisiche superiori a una 5 ottavi, per cui c'ha un guadagno leggermente superiore, però non leggiamo quelle che c'è scritto che sono solo fantasie, non esistono, non lo dico io, lo dicono la realtà dei fatti, deve avere, per avere 6 dB di guadagno deve avere minimo una 3 elementi, e una 3 elementi per la 27 è un'antenna enorme, non so se l'avete vista, io ce l'ho un anzi 4 elementi, mi sembra che c'ha 7 dB e mezzo, ma è un'antenna enorme, cioè con tanti elementi, dei direttori e dei riflettori, più aumenti gli elementi più aumenti il guadagno dell'antenna e naturalmente il campo di radiazione, il fascio si riduce, per cui è tutta un'altra storia quello che c'è scritto nella realtà rispetto a quello che vedo. Ok, a chi tocca? Avanti già. Noi ci accontentiamo, perché qua io sono in un condominio, non posso mettere cose molto evidenti, molto, sai com'è, no? Se la metto troppo alta magari hanno cosa da ridire, eccetera, eccetera. Già che salgo sempre di nascosto, quando salgo perché mi sono fatto doppiare delle chiavi, se no non ero una cazzata. Devo fare silenzio quando sto salendo e basta, e poi piazzare, una volta che la sto piazzando si affaccia, ma è che la sto facendo io, stavo sulla penna mia, va, via me ne scappo, ognuno c'ha una parte di proprietà, quindi del tetto. Vabbè, comunque quello che hai detto sì, è reale per quanto riguarda le direttive, ma la Smart Tech, come tu sai, sono due elementi, questo me l'ha spiegato il tecnico, perché ho detto cazzo, c'ha più guadagno della mantola, ma lascia perdere la mantola, è uno stilo irradiante verticale, questa è un'antenna praticamente tipo direttiva, perché hai visto che c'è il direttore davanti, quindi sono due elementi di antenna, anche se uno è da 8,50 m e l'altro è da 2,50 m, che poi arriva fino a 3 metri, il guadagno è reale. È reale perché è stato provato tecnicamente, non hanno scritto stronzate, è stato provato Vittorio prima di mandarmela, ha fatto le prove con gli strumenti e il guadagno è quello, non c'è niente da fare, non lo è, è una 7 ottavi. Sì, l'abbiamo visto, io così prima di prenderla l'abbiamo visto insieme, abbiamo fatto tutto quanto, però già, ti volevo dire che è fisicamente impossibile, i rapporti devi fare su un'antenna reale, cioè su un dipolo, cioè il confronto fra un dipolo, questa c'ha 3 dB dipolo, questa ne aggiunge altri 3 e sono 6 dB secondo loro di guadagno rispetto al dipolo, cioè 3 dB e in mezzo per dire, insomma lo fanno 3 più 3 sono 6, però non funziona così, la logica dei guadagni non è così, e poi loro il confronto lo fanno sull'antenna teorica, sicuramente come ho detto prima l'antenna tua rispetto alla mantova, primo motivo rende di più perché è più grande, e per cui più l'antenna è grande più parliamo un'antenna risonante perfettamente accordata eccetera, c'ha un guadagno superiore, primo principio. Secondo principio, c'hai un direttore davanti e ti aumenta leggermente il guadagno in quella direzione lì, magari prendi qualcosa dietro, però in quella direzione con quell'elemento guadagni, però a dirti che l'antenna guadagna 7 dB è tutta un'altra musica, non esiste qua. Così ha detto lui, così ti sto dicendo che io le caratteristiche le ho lette sulla carta, allora hanno fatto le prove tecniche, quindi così mi ha detto, così ti sto dicendo, ma la realtà dei fatti è che 5 dB sono tanti, capito? Se io avessi avuto adesso la Smart Tech avrei commutato tu da 9,30 quasi a 9,25, così fate tutti con la mantova, capito? E quindi cioè, avendo questi 5 dB di differenza di guadagno è chiaro che l'antenna è nettamente superiore, no? Non c'è niente da fare, usava. Va bene, dai. Comunque io mi ritiro per deliberare, ragazzi, sono le 8:10. Inizio a farmi un aperitivo con mia figlia. Statemi bene, buona cena a tutti, buon divertimento e ci aggiorniamo, ok? Ciao Claudio, buon tutto, dai, ancora rimango un pochettino. Vai Natali per il saluto. Ciao Claudio, buon proseguimento, grazie per il corseo, alle prossime. Avanti già. Natali, un consiglio ti voglio dare, quando piace con l'antenna, tra un elemento e l'altro, mettici un pezzo di tubo, di modo che la rinforzi, perché è lì che si crepa sempre. che c'è non è molto grossa, perché io l'ho vista, è finissima. E anch'io l'ho vista. Infatti è la resina che si rompe. Per aggiustare quell'antenna ci voleva un tubo unico entrato dentro in PVC e non si trova più. Ma scusate, state parlando della Game Master. Ma la Game Master non è vuota adesso? No, la Game Master è... ci passa il capo all'interno. Appunto, è tipo una canna da pesca. Ebbene, nessuno di voi ha pensato di metterci la schiuma dentro, cioè schiumogeno, quello che usano per le tubature e cose del genere, e sigillarla dentro. Oppure il chimico, che quello diventa una pietra, poi. Anche puoi tirare spazio, secondo me. Volessero la schiuma di dentro, che si mette nelle cose, e la robustisci un pochettino, ma secondo me un'antenna, il fronte rivolto al vento di un'antenna di quelle dimensioni, la chiamate quante circa 6 metri mi sembra, cos'è, a un quarto, qualche misura c'è, a mezz'onda, quanto l'hanno fatto adesso non lo so, o tre quarti d'onda, non lo so come sia, è un'antenna talmente leggera, se tipo canna da pesca, per cui il fronte al vento è molto limitato rispetto a una mantova che c'ha i radiali, c'è un'oscillazione, c'ha un tubo grosso, un piantone eccetera, è un pezzo di tubo di PVC, per cui che resistenza al vento deve avere? 5 ottavi la Game Master, quindi dovrebbe essere 6,50 metri, 6,75 metri più o meno. Sì, è così, 7 metri. Più o meno, perché poi bisogna togliere le percentuali delle cose per il calcolo dell'antenna, poi se c'è qualche bobina c'è ancora un pochettino, per cui è un'antenna anche leggera, quanti chili pesa? Pesa un paio di chili, un pezzo di tubo quanto può pesare? E tu pensa che con una mano la tratta di tempo, una mano l'altra metti dentro la tratta. Per cui un'antenna secondo me è abbastanza robusta, tutto vuole calibrato di coso, però se tu un'antenna robusta gli fai un effetto frusta, raddrunchi in due, quello è il problema, già te ti ha fatto l'effetto frusta, perché io a casa mia, non so se l'hai visto, io sono in alto, magari non avrò lo stesso vento che c'hai tu, ma quando gira il maestrale da me mi prende in pieno da quella parte lì, eppure la vedi oscilla, ma oscilla anche il palo, si muove il palo mio, sono tubi da 2,5 pollici, sono pali grossi, ma grossi, eppure ho tutto calibrato i tiranti in modo che ci sia una leggera oscillazione, non rigido, fare un palo rigido non va assolutamente bene, tu le torri che vedi delle antenne, quelle oscillano tutti quanti, sono tutte calibrate, torre di 200 metri, hanno sempre un'oscillazione, non deve mai scaricare su come un fulcro, cioè come una leva, se scarica in un punto si dronca, anche la migliore antenna, anche se la fai in coso, in cemento armato, prima o poi lesione. Vabbè, io lì ci avevo la mantova, te lo sto dicendo, ce l'avevo 12 anni la mantova sopra il tetto, poi l'ho tolta perché sono caduti i radiali, li ho cambiati due volte, mi sono rotto le scatole, l'ho tolta e ho messo la rimasta, poi ho fatto l'errore più grosso della mia vita. Allora, c'è anche quella mantova, non so se l'avete vista, nelle luci gialle, la Buddy Buddy, che era quello per la verde, rosa verde, boh. Quanti anni esiste quella antenna? Un po' di anni. Non so, dice, ma quella è messa su un palo grosso, diverso, capito? Io palo grosso non ne posso mettere, perché avendo messo le scarpe così, con tassini da 14, non posso mettere un palo, anche perché il palo vuole... distante dal tetto, perché se devo fare mettere il catrame e aggiustare il tetto, poi mi fanno togliere l'antenna, invece così l'ho messo alto di modo che non tocchi e non possano lavorare, capito? Sì, assolutamente, ma se presente il palo rigido non è fondamentale, senta la qualità del metallo, nel senso non deve essere un palo rugginoso che poi si forma l'ossidazione e si rompa, ci vuole un palo zingato, io ho usato quei pali grossi dell'acqua, adesso 2,5 pollici e poi a salire, adesso mi ricordo, ma sono pali di uno spessore, saranno 3 mm, cosa grossa, li ho utilizzati perché sono zingature di alta qualità, non sono quei paletti che vendevano tipo Bricome che da neanche un millimetro di spessore, da 0,8 sono 8 decimi e si bigia nella lungimutino, quelli vanno bene, si mette un'antenna a massimo di 2 metri di altezza, gliela metti a metà, non succede niente, senza controventature, ma quegli stessi spessori li usano per pali anche di 8 metri, tu si fanno a sonetto, che dei cose non valgono proprio niente. Allora è tutto un altro tipo di impianto, io ho messo pali di quelli per mettere, cosa ti posso dire, antenne paraboliche, roba del genere, di quei pali, e poi di quelli più fini, non di quelli da tubi d'acqua. Poi i tiranti logicamente devono lavorare i tiranti, perché se non lavorano i tiranti si picchiano un palo, roba, è una cosa normale quella, no? Se non lavora il tirante il palo si picchia. piega, quindi tirate, lo tiene in tira e non lo fa piegare. E ho così ho avuto l'antenna per 12 anni, non mi ha mai dato problemi. Ho cambiato quando ho messo la Game Master, tubo, staffe, tutto quanto praticamente, tutto quello che c'era l'ho cambiato, antenna, tutto nuovo messo, ho detto così non ci penso più, ma invece mi ha dato problemi, che sta Game Master da grande miraggio, mi ha rotto le scarpe. Ok, adesso lasciamo un attimino di bianco, se nel frattempo vuole entrare qualcuno, che se no magari annoiamo le generazioni future. Avanti che vuole entrare. Gianfranco, sei perso in Libia, ci sei Gianfranco? Saranno tutti facendo la fila per entrare. Gianfranco non ha messo nessun tipo di rinforzo, nulla, e non gli è mai successo niente. Noi l'abbiamo piazzata male, l'ha detto anche Gianfranco, bisogna rispettare le misure. Certo che sì, ve lo spiego. Io prima di mettere l'antenna ci ho fatto un progettino, ma non un progetto così inventato, tutto ho fatto dei calcoli di leve, i bracci, perché io non so, vabbè, a spiegare è un po' complicato. Io ho due ralle, il palo sono 9 metri più l'antenna sopra, e da una parte non potevo mettere i tirati, per cui ho costruito nella base, sotto l'antenna, cioè nel pilastro in cemento armato, gli ho fatto un braccio lungo in orizzontale, dal pilastro in orizzontale per un paio di metri, forse anche più, 2,50 m, che arriva sino alla seconda ralla, e dalla seconda e poi anche alla prima ralla, in modo che siano tutti i carichi sono equilibrati, ma ecco, da me c'è vento, c'è coso, ma io non si muove a fare le cose così, il carico lo tira solo su una parte dei tiranti, invece sono tutti distribuiti, hanno i regolatori di tiro, nel senso non ho usato corda da 13, ho usato proprio il coso, ho messo le redanze in acciaio inox, tutto proprio per non crepare niente, e poi sotto nelle basi dove attaccano i tiranti ci sono i regolatori di tiraggio, in modo che deve essere tutto equilibrato, se tutti i ricavi non sono rigidi, li tiri e c'hanno un po' di oscillazione, deve essere così, soprattutto quando c'hai spinte di vento, l'antenna manta va pesante, penso che pesi almeno 6-7 kg, tu fatti conto tutti i contraccolpi che prende, quando c'è vento, a vedere si tira. Allora, io gli volevo mettere più regolatori, Claudio mi ha detto che era meglio non metterli perché quando ci sono fulmini, roba del genere, attirano i fulmini, le cose di metallo. E quindi non li ho messi per quello, se no l'avrei messi anche io. E chi le dice queste cose? In base a quale statistica? Ti hai presente che il fulmine va nelle punte, nelle parti alte, mai nelle basi, è una cosa rarissima. Trova il punto più in alto, scarica, è una legge della scienza, che nel punto più alto scarica. Raramente va in terra e non prende l'antenna. L'antenna poi è a massa, poi se deve entrare il fulmine non visionte, non mette nulla, tiranti, controtiranti, eccetera. L'importante è che i tiranti non siano in metallo, perché in metallo ti possono dare problemi di coso, di disturbo all'antenna, l'irradiazione dell'antenna. Io gli ho messo quei cavi nautici leggeri, in nylon, lati marino, e vanno più che bene. Poi non deve, qualcuno, nell'altra antenna che avevo usato, avevo utilizzato dei cavi, mi ha mollato un tirante, un'antenna a 13 metri di palo, tu ne ha mollato uno di tirante e dal giorno ho detto mai più utilizzare quei sistemi lì. Ci metto sempre regolatori in modo che la tensione sia equilibrata da tutte le parti, non ci deve essere un cavo più duro o meno muro, o più leggero dall'altra parte. Sì, vabbè. Beh, ora mi è passato fatto, mi dice cosa devo fare. Comunque, come l'avevamo messa, andava bene, cioè la mando, ma non va bene anche quella, perché il sistema era uguale. No? Io ho dubbi tiranti, da ogni parte c'ho dubbi tirante. Per dire, tu mi dici quanti tiranti c'è, 9 tiranti, ne ho 99, 18, capito? Ce ne ho praticamente i dubbi da ogni parte. E ho messo tiranti di quelli che si usano per il filo da stendere. Io ho sempre avuto quelli, non mi hanno mai dato problemi. Sì, ma già ti ripeto, non bisogna irrigidire troppo il palo, ne bastano 3 di tiranti. Se poi il palo alto ne metti uno a un metro di distanza circa dalla base del piantone dell'antenna, nell'altro un pochettino più in basso, incrociati, in modo che la distribuzione dei carichi sia uniforme. E non se ci metti 250 cavi, tirantini e tirantini, diventa una cosa rigida il palo. Deve avere una leggera oscillazione. Queste sono leggi fisiche della, se le studiate a scuola, le leve. dovrebbe, non ci deve essere il fulcro in un punto strategico, se no si tronca in due, soprattutto se è troppo vicino all'antenna. E se fa quell'effetto frusta e il palo non oscilla, tu puoi prendere la migliore antenna del mondo e si tronca. Io non so quanti ne ho visti, non le mie sono giocate, parliamo di impianti, parliamo di tralicci, di cose importanti dove ci sono sollecitazioni, ho visto degli impianti malfatti, di bloccati cose, e si sono truncati in due perché erano state fatte con i piedi. Poi se tu guardi gli impianti di un certo livello e ti dici cazzo, guarda questo che leggi sta seguendo, che regole eccetera, ci sono delle regole da rispettare. Naturalmente noi stiamo parlando di sistemi di antenna ridicoli confrontati a quegli impianti dove ci sono antenne con cariche importanti, però se riesci a farlo bene, poi il palo, se tu c'hai una buona posizione già, è inutile salire a 10 metri, ma stanno anche 3 metri di palo, messo bene, distribuito bene, e va più che bene. Allora, il mio palo è di 8 metri, io l'ho salito 5 metri, il resto l'ho lasciato dentro per riportare, ho fatto così. E poi, per il resto, i tiranti sono messi in modo che non siano rigidissimi, si muovono, e non sono tettari come dice Sassarese, non sono proprio dritti, si muovono, con tutti i tocchi si muovono, quindi non sono troppo tirati, capito? Però già vanno bene, come l'ho fatto va bene tutto, l'unica cosa che non va bene è l'antenna, perché adesso mi sta andando anche stazionare, mi sta girando le scatole e la cacchio, non mi va più bene perché stavo fischiando sicuramente perché c'era stazionario, ho messo il regolatore, l'ho regolato le stazionari e adesso va bene. E io poi che cavo sta utilizzando, che cavo è fondamentale per le stazionari. Ah, il cavo che è buono, è cambiato pure il cavo nuovo, quello grigio. Sì, no, ma cos'è, non è il 58? No? Perché il cavo, cazzo, se non c'è un bel isolamento, c'è prima tutta una perdita, poi basta una scheggiatura di cose, un po' di umidità e ti cambia i valori delle stazionali allucinanti. Dobbiamo usare sempre cavi più buoni, soprattutto poi se si sale di frequenza ancora bicio. Infatti io per la bimanda c'ho un cavo da 13 e non riesco a fare niente, adesso quando devo montare la antenna c'è un cavo di qualità superiore, non è il top perché per il momento lascio stare quello lì, ma nella mantova io ho il 213.000 ed è eccellente. Se avessi messo un cavo da coso, da RG58 anche buono, avrei avuto delle stazionarie tutti i giorni quando piove. Io ti faccio vedere l'impianto mio, sempre 1-1, massimo 1-2. Da quando ce l'ho io non ho mai accordato e mai fatto niente. Anche il mio era così, non si muoveva da 1-1, gira per tutti i canali, sempre 1-1. Con la manta, ma adesso vabbè, ci sono problemi sull'antenna, quindi normale che salgano le stazioni. Vabbè, comunque, adesso vediamo, la REM sicuramente domani mi dovrebbe arrivare, se mi arriva domani la piazziamo qua, no? Esatto. E comunque la tarina li consiglio di rinforzarla, perché con l'antenna lì se non la rinforzi che si fascia. Vabbè, ma Natalino c'ha un palo basso, che cosa si fascia? È abbastanza chiuso, non è che c'ha, non è in campagna per dire, dove c'è un po' di vento, di lì diciamo ci sono anche palazzi vicino, un po' li attenuano le correnti, dai, non è che è aperto tipo come sei aperto tu che sei un benato. Sì, c'è il mare di fronte, se tu sali sul tetto vedi il mare, vedi anche la Cinara, tutto grande, tutto lo spettacolo, le barche si fermano. Sì, sì, sicuramente sì, però non è, è pieno di coso, le correnti di vento, le brezze non sono dirette perché ci sono un sacco di palazzi più avanti che li attenuano parecchio le cose, ma di traversia può entrare qualche corrente, però non ha un vento pieno, per dire, a me da una parte entra il vento pieno mi prende una... dall'altra parte invece sono protetto, c'è un palazzo un pochettino più alto di me e mi protegge, il levante che mi dà un po' di fastidio, vabbè non è un vento predominante il levante, però dove sei tu già, in chi vibili tutti i venti? Perciò io ho messo tanta tirata, proprio per questo, perché se c'era quel vento la faceva piegare, come se avessi preso un'orata a 5 kg, si piegava quasi in due, e si è assommato quello di giù, quello che abita nell'attico, ho detto, oh, signor Già, guardi che l'antenna si sta tutta piegando, no, ho detto, quello è fatto apposta, si piegano così quelle antenne, resistono 160 km orari, per scritto poi. No, no, ma già è vero, c'è da crederci già, però 160 km orari è un'antenna montata nelle condizioni ideali, se no basta un vento di 60 km della tronca, se non è montata nelle condizioni ideali, si tronca. Ti ho detto, fa levaci, qualunque cosa, ma anche nelle macchine. Io ti faccio vedere degli esempi di macchine, chiudendo gli sportelli, c'era la panda, e infatti noi facevamo una modifica, nelle macchine a due porte succedeva la panda, la 1, la Polo, come sbattevi lo sportello c'era il penno e si lesionava, perché faceva, scaricava l'altezza della, sopra la serratura l'altezza del cristallo, sbattevi, faceva torsione il materiale, eppure la lamiera rinforzata pure all'interno, alla fine dovevi fare una modifica, dovevi mettere del materiale più flessibile, lo facevamo in ottone noi, in modo che la torsione superisse a questa dilatazione, a questa sollecitazione, non dilatazione del materiale, così sono le antenne e qualunque materiale. Infatti dice che quando fanno i grattacieli, cosa, se noti, salgono sempre a scalare. Ci sono